549. Tacchino. Il tacchino appartiene all'ordine dei rasores, ossia gallinacei, alla famiglia della fasanide e al genere Meleagris. È originario dell'America settentrionale, estendendosi la sua dimora dal nord-ovest degli Stati Uniti allo stretto di Panama. E dà il nome di pollo d'India perché Colombo, credendo di potersi aprire una via per le Indie orientali navigando a ponente, quelle terre da lui scoperte furono poi denominate Indie occidentali. Pare accertato che gli spagnoli portassero quell'uccello in Europa al principio del 1500 e dicesi che i primi tacchini introdotti in Francia furono pagati un luigi d'oro. Siccome quest'animale si ciba di ogni sudiceria in cui si abbatte, la sua carne, se è malnutrito, acquista talvolta un gusto nauseante, ma diviene ottima e saporosa se alimentato di gran turco e di pastoni caldi di crusca. Si può cucinare in tutti i modi, all'esso, in umido, in gratella e arrosto. La carne della femmina è più gentile di quella del maschio. Dicono che il brodo di questo volatile sia caloroso, il che può essere, ma è molto saporito e si presta bene per le minestre di malfattini, riso col cavolo, rapa, gran farro e farinata di gran turco, aggraziate e rese più gustose e saporite con due salsicce sminuzzate dentro. La parte da preferirsi per l'esso è l'anteriore, compresa l'ala, che è il pezzo più delicato. Per l'arrosto morto e per l'arrosto allo spiede si prestano meglio i quarti di dietro. Trattandosi del primo, è bene steccarlo leggermente di aglio e ramerino e condirlo con un battuto di carne secca o lardone, un poco di burro, sale e pepe, sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua, onde poter rosolare nel suo intinto delle patate per contorno. Arrosto allo spiede si unge con l'olio e, piacendo, si serve con un contorno di polenta fritta. Il petto poi, spianato alla grossezza di un dito e condito qualche ora avanti a buona misura con olio, sale e pepe, è ottimo anche in gratella, anzi è un piatto gradito ai bevitori, i quali vi aggiungono, conciati nella stessa maniera, il fegatino e il ventriglio tagliuzzato perché prenda meglio il condimento. Vi dirò per ultimo che un tacchinotto giovane del peso di 2 chilogrammi all'incirca, cotto intero, allo spiede come la gallina di Faraone, può fare eccellente figura in qualsiasi pranzo, specialmente se è primiticcio.